Ehi, senti buon Leo, talento, faia, Luleo, Luvin, Seletta, la vera vibrazione dello talento, Reggae Ragamuffi, la vera vibrazione dello talento. Mi chiede nulla è stato, ma io non sono nessuno, solo perché canto, sento la musica al commento. Non sta giù qua, ma io fare spiegare caso, come ti di merda, c'è, ma io sentire chi è superiore, non è no. Per questo come ti è, non è chicca, non è no. Tengo una bravo, non è Lamborghini, se lo so, sono tutto bello dello principe azzurro. Mi scrivi lettere, sono il tuo sogno fatto realtà. Non mi comprendere, la stame fuori dalla vita. Sappiamo vivere, ognuno per la strada sua. Ha sbagliato, no, non sono io la superstar, mi piace giro. C'ho una denzolo e sacco con ballo. Giro zoppo, giro intanto cerco l'amico a me sballo. Della gente che frequenta sto posto incantato, arrivo io, Oh, stelo, Leo. Mi chiede nulla è stato, ma io non sono nessuno, solo perché canto, sento la musica al commento. Non sa ciò come io fare, spiegare caso, come ti è di me nel cima, io sentire chi sono superiore, non è no. Per questo gomma ti è, non è chicca, non è no. Tengo una bravo, non è Lamborghini, se lo so. Sono tutto bello dello principe azzurro. Sehele, ma che dici? Allora osa de mane, fanne questo tuo piacere. Salento, boom, fai agisce, ruggisce. E se promuove, senti, no, sto la vera vibrazione. Calubi, chi te face, petti, e gnona, sona, solo petti. Porta l'ufe, quella ria. Se mi piace sto pezzo, a me dai la carica. E per questo io canto quando mi vedi sulla via. Me basta solo l'usando, non c'è bisogno della foto e manco dell'autografo. Mi chiede nulla è stato, ma io non sono nessuno, solo perché canto, sento la musica al commento. Lo staccio qua, ma io fare spiegare caso, come ti di me perché ma io sentire che superiore, non è no. Per questo come ti è, non è chicca, non è no. Tengo una bravo, non è Lamborghini, se lo so. Sono tutto bello dello principe azzurro. Sehele, ma che dici? Faccio musica, perché me viene con la faccia giù del nodo, un maestro. E per questo lo ringrazio, mi dà la forza. Un disco lo stile so, reggae ragamuffi, combination speciale per me. Ho la firma del studio, del ricunando e dello Fabio. Marina de Nietzsche, poco canto qui dietro un sogno. Sono tu, i dile star, musica palla buona. Parole vere, sincere, metriche, liriche, fuori de capo.